male hai fatto male. E te l'ho detto che eri zitta a tappare oggi, incrabulata lì. E viene, siamo arrivati adesso. Così che ci abbiamo passato bene, si stava veramente bene. Così che tranquillo e pacifico. Ed eccoci qua. Ciao, dopo pranzo sono sceso in campagna a far mangiare carne, mi ha già stati su due innocenti. 3 metri sono. L'altro dubro l'ha già uscito da 6 metri. Quello là 3 metri ho trovato. Vabbè, più 2 sono 5, andava bene. Se va bene a te, va bene a me pure, grazie. Ma dicono che ne bisogna pure lui, da 6 metri più 2 su 8, più 7. Ah, va bene, dovrebbe andare bene là. Vabbè, se tu dici che va bene, per me va bene ugualmente. So che l'antenna più alta è, più bene, più bene ricevi, più bene trasmetti. Così che potrebbe anche andare bene così, dai. 3, 1, 4. 4 metri di tubo, vabbè. Che? Già va bene, quanto esce dalla tromba dell'ascensore su, senza calcolare l'antenna, quanto esce e può uscire dalla tromba dell'ascensore? Non lo so, non me lo ricordo. No, è 3 quello che ho io. Quello che mi ha dato tu è 2 abbondante, uscita. È 2 metri abbondante, adesso già 5 metri. Più 7 metri l'antenna. E cosa si deve fare? Ok, l'antenna, tu devi calcolare il tubo. Ecco, super dalla cabina dell'ascensore, se esce qualche metro fuori della punta dell'ascensore va benissimo, quell'altro, capito? Ma più bassa di un metro non va bene, di più può andare bene, di manco no. No, questa, con questo tubo esce di più di quello che c'è adesso. Quel tubo che c'è era solo uno spessore, mi aveva messo di 3 metri o 4 metri. Dunque questo è 3 metri il mio, più quello che mi ha dato tu, 2 metri abbondante, e sono 5 metri. A voi la riesci. E allora, va bene. Allora, vediamo quando ci vengo, va. Vediamo un po'. Ma Antonio Rossi è andato sin me. Boh, ma ha detto che veniva subito in orario 20, infatti me ne sono andato su USB a centro agenti stranieri e poi su LSB a centrare gli stranieri. Solo non ne comprendo il tubaro. Che ci ridice. Eccolo. Vabbè. Da meno parte ci sono quelli che parlano anche italiano, per cui da ricetti, risegni, è come si fanno sentire. Buonasera a tu, bene scucciato stasera. Radio Maria, spero di uscire bene di radio, che stanno sempre facendo cambiamenti in stazione, capito? C'è così che va bene a tu, c'è così che va bomba, va benissimo, ti bene così cosa vuoi, già va bene. Siamo contenti. Guarda, solamente una prova, la differenza fra così, guarda, fra così e così, c'è 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'è sì la differenza, ha aumentato parecchio, Siamo contenti. Infatti, con questa potenza arriviamo sulla Luna o a Marte, direi, specialmente Graziano. Graziano dice che deve arrivare a Marte. E allora, me lo lasciate in garage, quello me lo tengo in garage perché è più lungo. Domani mi si fa un video, gli do un curore, e all'altro gli do l'anteruggine. faccia sta vetrata, già non è stato mai chito, ma come era fuori è un po' ruginabile. Gli do la scatta vetrata, la spennellata e gli do l'altro ruggine. Ehi, riprenda tutto. Cappa, registrate il break, avanti con la buonasera. Cappa, viene avanti con nominativo, così ti do il controllo, avanti. Di Santiago 7 a picchi di 9, con una radio di 3, qua all'ingresso di Sassari, ti manda avanti anche Gian Maria, così te lo dà lui, avanti. Non lo sento, non lo sento. Allora, un attimino che mi hanno portato la pasta, adesso me la mangio a faccia a voce, dai, riprendi grazie. Non lo sento, l'amico è. Ehi, neanche io lo sento, tu. Quando sei cambiato Elio Piuma, dice che non ti copiano. Piuma? Mi ha perso il capire. Elio Piuma è un vecchio civico. Aspetta un attimino, ti mando avanti Gianni Dobbio Roma, avanti Gianni Dobbio Roma, buonasera. Buonasera a tutti, dai, dai. No, io non lo sento, Antu, però Elio Piuma è un vecchio civico, sei lui. Comunque la stazione Dobbio Roma che ti sei portato via Rizzo, se... Se lo senti, non so se mi sento, dove sei, sì. Antonio, nulla ne sai che c'è la sfidata di moda, la piazza civile. Sera. Oh, sono i preparativi, domani mattina devo partire. Buonasera anche a Claudio, ben sentito. Avanti per Elio Piuma, dai. È lui Gianni, già è lui. Ciao Elio, buonasera. Non lo senti perché sta parlando da Usi. Hai sistemato il microfono, Elio? Un po' bassino la modulazione, il segnale è quasi 9, però c'è un po' di propagazione e quindi ti copre un pochino, però la modulazione è meglio l'altro giorno. Elio Piuma, sì, vecchio CB Gianni, ti saluta cordialmente, ma non ti intendi, andevi alla sfidata che bisogna proprio l'artificio robato. Sono due sembrava una pietra, quindi induttore al vero, praticamente stavo uscendo con un commerciatore anziché con un connettore, completamente pieno di calcario, proprio sabbia, capito, l'umidità, la cosa, non acqua non ne ha preso, però proprio la condensa che scende deve essere nell'antenna, va a depositarsi sul connettore. Non è molto alto questo, perché sennò bom bom bom che questo, capito? È un bel foro, poi guarda, adesso ce l'ho sotto la C e così è a manetto, guarda, che non bomba troppo. Avanti. Salutoni a tutti, buonasera, Gianni Caprillo da questa parte. Doppio a voce bassa. dubbio e le due persone. Giulio. Aspetta, c'è un break di sottofondo, è da poco fa che sta chiamando. Ma c'è anche io più. E lui è. Forse tu più, solo quell'M adesso è basta. Sta uscendo io più, ma come non lo sento? C'è un'antenna piccola Ugine, la marca quanto me. Perché Clara? Non è nulla, la marca. Esagerato. No, adesso l'ho tarato, ma tu sei 40 e più, la mazza che te ne varia. Sembra che incontro un po' di chilometri di campo che con le volate la tua fuori lo fondo a Claudio. Ok, già va a girare un'ultima posizione ancora, e anche io l'altra volta avevo problemi con lo fondo, ma pure di cambiare gli apparati, da un apparato all'altro, avevo allentato le 28 avevo da me. Adesso l'ho saltato lì nel coso che è innalzato bene, adesso non sono da poco. Perché io questo edi non può più, ma non lo ascolto. Non lo ascolto assolutamente, di solito un po' che attiva K2 da Ugine, ma proprio e non più, ma non è stato più, ma neanche tu già così, non lo ascolti. No, non è che non Claudio, se non sbaglio faceva gli adesivi e li ho più, ma le magliette, e sicuri. Sì, si sta attrezzando un attimino con il tuo istesso, però ancora non ha montato l'antenna. Io lo sento se non c'è QRM, attenzione, ma se c'è QRM è segnale nuovo, non lo sento neanch'io. Tanto me, perché c'è la direttiva, io ho capito, io non ce l'ho più la verticale. Ho la direttiva che è a nord-ovest, sicuramente ti prendo di fianco, ma c'hai un segnale allucinante. Sicuramente è per quello. Dante in antenna cambia, Dunque alla fine ti ricevendo da una parte, non proprio diretto il segnale alla fine. Ti va anche di fianco, diceva il direttore, in avanti è il riflettore dietro, quindi sto prendendo col riflettore, ma cacchio c'hai un segnale allucinante, 9,40 pieno sì, 9,40 pieno, ma non lo so, se la metto per il 20 o la giro ogni tanto, capito? Quindi è per quello. Madonna, è un segnalone, non ti ho mai sentito, di solito tu sei 9 più 20 arrivi qua con la verticale, figurati. Cosa fa la direttiva? 9 più 40. L'apparaticchio 9 più, perché la 68 fa 9 più, poi arriva a 30. Dunque alla fine mi dai un margine, 9 più 10 più 20 più 30. Qua c'è sempre 9 più 10. Sono tutto garantito, sempre così alla fine, anche se c'è una antenna diversa dal solito, forse sempre 9 più 10 qua. Antone, ma tu sei liscio, occhio? No, in quel punto no, aspetta, e così sono liscio. Ah, ecco, ho capito, andare, no, pensavo che si liscio con questo ideale, se avessi fatto un canale. Ma mica non cambia molto, mi già, è 9.30 di short. 9 più 30, quando attacca va 9.40, sono tanti, 10 punti sono tanti, un bel sono, Vabbè, tieni conto, io ho un'attenuazione di 20 dB rispetto alla verticale, attenzione, quindi, perciò, va un bel bene, alla grande, ma anche Capri, e Capri sono 9.25, quindi, non può segnare Capri mio. Sei nove già. in qualche modo stai usando quel Midan con la con lo scheletro, questo quello in metallo, quello 40 canali. Anzi, ti ho dato troppo, 6-7, non 9, sbagliato io. Sì, no, non li siamo, Luigia, non li siamo, lo è testa, non li siamo. Parla assieme a Capri 2, parla Capri, parla Gianni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, sì. Entrato un brecco. Sì, già, stavo guardando il segnale, Gianni è 9.22, tu sei 9.28, così come si è adesso attaccato, perché si è attaccato, già lo sai che io me ne accorgo subito. Staccato, avete più o meno lo stesso segnale. Avanti break, buonasera. Buonasera Claudio Sbarbiero, K2 qua che vi saluta, ciao Gianni Capri2, non so chi altri c'è, la verità non ho fatto ascolto, riprendi Claudio, buonasera. Sì, questo è il K2, buonasera, ben ascoltato, c'è Gianni Doppio Room da Sassari, poi c'è Antonello Barracuda da Ossi e K2 lì dalla colinetta di Muros, quindi vai tu per chi vuoi, avanti, buonasera. Ok, Barracuda, ok Gianni Doppio Room, salutoni da parte mia. Capri 2 sta arrivando fortissimo, non l'ho mai sentito qua. Ok, buonasera K2, non lo so, sta arrivando forse meglio così, quando con qualche pentolino attaccato. Hai capito, no, giusto? Famosi bruciola. Minimo. Fa sentire. Ok, comunque l'importante è ascoltarti, K2. Niente, rimettiamo subito il cambio a Torino Barracuda con tutti i numeri che sempre a Torino, come stai migliorando, è quinto 9.40 qui a Sassari. E vabbè, giustamente con quell'antenna, poi Claudio mi ha detto di una curiosità. Comunque, buonasera e ben sentito la Barracuda. Ma Claudio, ma poi una curiosità, da cosa te ne accorgi quando entro io, anche senza modulare, ma da ogni volta che premo portante fa un rumore strano suo particolare? Dall'impronte digitali del mic se ne accorgi. Radio cognome, però mi segna che sei tu, non mi dà il nome e cognome ma mi dà la direzione, Ossi. Ah, Gaia che di scena, boh, va bene. Noi credevo che te ne accorgi, non so, che volasse il microfono, c'ha una sua particolarità, dunque premendo, fa quel suono suo particolare. Ah, ecco, c'è la tecnologia in mezzo, va bene, dai. La direttiva, per me, si è puntata Nordova, perché il fianco, il riflettore, Ossi. Il direttore è Gianni, e quindi avanti c'è Gianni e dietro ci sei tu, no? Se non entrava Capri è chiaro che sei tu, qui è entrato Capri, adesso c'è anche K2, quindi siete in tre, il primo che ho chiamato sei tu. A contribuire. Comunque vabbè, un po' di settimane fa avevi fatto un discorso sul un apparato che c'è un radioamatore che costava, se non ricordo male, correggimi se sbaglio, 12.000 euro. Io così per curiosità non ho mai andato su internet a biblioteca. Ci sono anche dei video su YouTube. È veramente un bel motriciato, lo è, sempre si è capito a chi mi sto riferendo. Sì, ma non c'è problema, non c'è niente da nascondere. RFT 9000 e ce l'ha Fabrizio e ce l'ha Walter, ce n'è solo due. Ce n'è solo due in credo qua in provincia di Sassari, non so se ce n'è a Cagliari, non lo so, però qua in provincia di Sassari, non a Sassari, in provincia ce l'ha sia Walter che Fabrizio. RFT 9000, ok, ecco, 12.000 euro quella costava, 12.000 euro quella radio quando è uscita. E ha fatto uno sguardo, l'ho visto un po' il G del funzionamento, e ci sono anche delle prove, dai, con il video. È veramente una bella storia, quello batte e avanza, a me battava e avanzava solo uno, a voglia, molto molto bello, è la verità, però un po' troppo tecnologico per i miei gusti, però bello allo stesso tempo. Ti auguro, Antonio, con tutto il cuore di potertene comprare due, ma soprattutto ti auguro di saperlo usare, perché non è facile, né per uno né per l'altro ancora usarlo come deve essere, è una... non si può descrivere, capito? Non ci sono descrizioni per quella radio, è il massimo, il top del top in gamma materiale. Non ci sono descrizioni, cioè non, se dovesse parlare di le fanno caffè, ti fa anche il caffè, è una cosa allucinante. Gianni che conosce il DAC, Gianni conosce bene il DAC, è due volte più grande del DAC, come lunghezza, come larghezza, come altezza. È peso 80 kg, ma è possibile? Sì, pesa le 7000 quello che ho io, 40 kg, una cosa del genere. 40 perché c'è l'alimentatore dentro il contenuto, anche le 7000 c'è l'alimentatore dentro il contenuto, capito? È 220. Quindi è un bestione, non ci sono descrizioni, non possiamo parlare di quella radio perché non ve lo posso descrivere, è una cosa allucinante. Io dal 93 a oggi, a quando l'ha comprato Walter, il primo, che l'ho visto mi sono spaventato, cioè non avevo mai visto una radio così grande, è una cosa enorme tecnico. Tecnicamente avanzata in non si può dire, manco il computer si può mettere a fianco con la radio. Poi giustamente passo il microfono agli altri, viene venduto insieme al monitor, così è, o il monitor è da parte, è un optionale insieme con l'apparecchio. Monitor è a parte, quindi devi aggiungere altri 1700 euro per comprare il monitor. Ti sto dicendo, Antonio, che è una cosa pazzesca. Da vedere e da usare, io ho avuto la possibilità di provarlo da Walter, credimi, non è facile, perché non è facile. Fai le cose essenziali, ma se poi vai a scoprire tutto ciò che fa è pazzesco. Il prezzo dice tutto, quindi no. È così. Ok, allora facciamo girare il microfono per te, Gianni, doppio room, e fai girare per Capri, vai. Prego. E un attimo che decido di stare a casa, questa gente che c'è, rimango, dai. Riprendi tu Gianni, Capri 2, poi penso ci sia a far girare che mi sto cambiando. Ok, c'è anche un break, lo facciamo venire avanti, lo facciamo. Con la buonasera, allora, Claudio Spargiero, Antonio Barracuda, c'è Contro Gianni Doppio Rum, K2 e qui K2 che sta modulando, no, non so se mi sono dimenticato anche, a parte il break. Ehi Gianni, ciao, sono io. No, mi è mancata la luce mentre stavo modulando lì ed è ritornata adesso. Blackout qua, quindi nuovamente tanti saluti a tutti. Gianni, stai arrivando fortissimo qua, 9:10. Dove sei? Casa mia. Caspita, io ho messo l'antenna sul tema per questo. E ho spostato l'antenna lì da terra, diciamo, adesso ce l'ho messa sul tetto ieri, quindi caspita quanto ha migliorato. Ok, va bene, mi riprendi già a girare, rispondi al telefono. Guardarmi troppo, non si guarda in qualche cosa, ti volevo dire chi io ando, no, a cosa stavo dicendo, a K2. Già, riprendi che non ho copiato. Se giri con la bicicletta, no, io non circolo con la bicicletta, io circolo a piedi. Pensavo che... Poi conosce K2. Ero in zona ieri, in quelle zone di giro, dentro c'è un apparato in macchina. Ok, benissimo, facciamo subito girare. Antonio Barracu, riprendi, concentra i soldini. Anche io domani nel salvadraio e ci compriamo quell'apparato anche noi. Così ce ne sono quattro. E non è così già, prima devi studiare, poi da sempre che ti danno la patente, giustamente, allora sì, ma siccome non c'è la possibilità nulla dell'altro, mi accontento di questo, e va più che bene, volentieri, io l'ho visto a un sacco di pomelini da manovrare, no, e mi va bene quello che ho, due manovre e il gioco è fatto, bisogna accontentarsi. Sì, che abbasso, mamma mia, scoppiato, che abbasso, l'UHF. Guarda, Antonè, ti dico che si può modulare anche in due, uno a fianco all'altro, quindi c'è spazio per tutte e due, uno usa il VFOA e l'altro usa il VFOB, non c'è problema. Se tu vuoi vedere la televisione ce l'ha incorporata e quindi, oltre al dato di spettro, ti fa vedere anche la TV e quindi non hai problemi. Puoi parlare e guardare la TV contemporaneamente, oltre a vedere i segnali che hai a fianco, dietro, al centro e misurarti la modulazione e lascia perdere. Non ci sono parole per quella radio. Ok, è rientrato Antonio Grodi, avanti Antonio. Guarda, sto facendo TVI, un attimino mi sto risolvendo. Rottura di palle sto TVI, un attimino sta risolvendo, ma non si risolve questo problema. Mamma mia. Mettiti un baracchinetto a 4 watt e prova a vedere che rottura questo TVI, e mamma mia, non sopporto. Va bene, risolvi e poi richiamo, dai. E Gianni doppio rum, vieni avanti. Gianni si stava mettendo il pigiama, allora microfono per te, K2. E benissimo. Ok. Allora, per dirvi di cosa stavate commentando. Radio K2, quindi di radio si parla e basta. Adesso ho capito appunto la palla io a portare, andati siete, barracuda, ripeti. Ah, guarda, non lo leggo, sì, sono andato a votare, però a modo mio. Il mio figlio non ci è andato, uno, Claudio non ci è andato, l'altro gli è andato, io e il mio amico siamo andati, non ho fatto nessuno, chi ci vuole andare, ma è capito, io e mia moglie, fino a dove l'abbiamo fatto, poi gli altri non devo più, non voglio nessuno, la cravatta, ripeti, grazie. No, la cravatta non si prende nessuno, non c'è niente da fare, guarda, io sono andato perché ho promesso un carissimo amico, quindi ho votato la persona, no, non mi interessa, per quello che succede, succede per me, tanto sono tutti uguali, non sono mai andato a chiedere niente a nessuno, ho sempre fatto e l'ho fatto per conto mio, perciò non me ne fotte nulla, però questa volta c'era una persona di casa e quindi abbiamo fatto il dovere familiare, basta, a quei livelli, poi per il resto ti ripeto, non ho niente da spartire con nessuno, perché tanto sono tutti bravi con le parole, poi quando si siedono nella poltrona che iniziano a scaldarsi il culo, allora manco più ti guardano in faccia. Vediamo se è rientrato doppio rutto, avanti. Ma sono qua, sono rientrato, non sono messo il pigiamone. Luia, avevo intenzione di andare, ma poi me ne basta da ragazzo. C'è freddo, poi mi sa che c'è una bella rotta e quindi mi piace restare, dai, con la verità. Avanti, Antonio. No, io la verità sono andato e ho votato a modo mio. Troppo triste, aspetta che abbasso questo. Troppo triste anche immaginare. Proprio per non buttarlo, ho buttato a modo mio, così, ma non ne vale la pena, verità, no, proprio per nessun motivo, tanto mi regali un po' di lavoro a persone che poi non faranno mai niente per nessuno, ormai la minetta si sa com'è, dunque, ognuno la vede. Tu hai votato a tutti, scommetto, hai fatto la croce, manna. Proprio una croce, no, se potete immaginare che cosa, così, non va nessuno. Vabbè. Anche io avevo quell'intenzione ma di non andare, perché anche io la penso come te, però poi ho pensato c'è anche l'avvenire dei figli, questo e quell'altro. quindi le cose vanno sempre di fianco a trasfascio, quindi ho avuto fiducia in una persona, ho avuto fiducia che forse è l'unico che si sia interessato e ho dato il voto a lui. Poi come vada vada, io spero che vada bene, però con questa storia che sarebbe dovuto aprire gli accisi e tutte quante queste cose, che dovevamo fare la zona franca, e si parla, ma ancora di concreto mi pare che non venuta. Guarda, poi faccio un piccolo passaggio, interrompo subito, aspetta Guarda, il 14 sono andato mia moglie giù a Sassa a fare una passeggiata verso le 10 del mattino lì in Piazza Castello. Ho preso un caffettino, tanto per passare una mezza mattinata, era anche una bella giornata di sole, e in un angolo c'era questa signora che era di Sassari, perché bene o male, anni che gira a Sassari, un po' le facce le conosci, era lì in un angolo a faccia bassa con questo cartello che chiedeva aiuto, diciamo non era i soliti zingari, era proprio una signora di Sassari, del posto. Ma si vedeva che era talmente d'imbarazzo, guarda, che è rimasta 5 minuti, molta gente si è avvicinata, le ha chiesto il suo problema, gli ho dato i soldi come gli ho dati anch'io, io 5 l'avevo, 5 euro gli ho dati. Poi si vedeva che era talmente a disagio, è rimasta 5 minuti. Che seguito. No, per farti capire un po' com'è la situazione, che sta arrivando anche alla gente del posto, poi a non farcela più e a buttarsi in queste condizioni, a chiedere l'elemosina. Già questo fatto è abbastanza grave, ti fa capire tante cose. Sì, ma io ho visto parecchi, guarda, io consegno la carica, quindi so come sono le cose. C'era fila aspettando che arrivi la merce, non devono già confezionare, fare cose, allora aspettano lì, buoni, stanno ore aspettando. E a quando arrivo io a portare la merce, togliamo la mano a scaricare, no, non vogliono, guarda, no, le signorine non vogliono che scarichino loro e cose, vabbè, aspettate 5 minuti, però state attenti anche se mi devo urlare qualche cosa dal furgone quando sono qua, perché ci sono quelli bravi e anche quelli che rubano. Infatti, per attaccare al discorso, dunque voti a chi? Tanto non risolveranno mai niente, come nessuno ha risolto mai niente alla fine. Sì, beh, io mi ricordo che queste battute dei soldi che si mangiavano si facevano già da quando io avevo 16-17 anni, quindi immaginate da quando è che stanno mangiando, Antone, solo che adesso stanno esagerando troppo. Io non dico, no, quando ci sei in mezzo, il cavallo quando è in mezzo al prato bruca, però non dico non toccate nulla del tutto, ma lasciate qualche cosa agli altri pure. Come facevano prima, bene o male un po', diciamo, la pappa la distribuivano un po' a tutti, ce n'era per tutti, adesso ormai no, tutto per loro, perché vedono che sta iniziando già a diminuire un po' la situazione. Prima bene o male spartivano, adesso niente. Beh, è una cosa che non si crede, ma non se ne rendono conto come stiamo andando a finire. Dopo anche loro si andranno di mezzo, perché poi la gente non avrà più soldi per pagare tasse per niente. Avanti K2. Ehi Roger, è discorso molto complicato. Io vado domani mattina con calma, quando ho fatto colazione, sbarbato, pettinato, ci voglio riflettere bene io sul voto. Sì, domani mattina anche che non ci sono le elezioni. Sto pensando anche di tenermelo, se lo vogliono lo pagano. Arrivati a questo punto, però farò domani mattina. Quindi facciamo come credono, ok. A chi tocca adesso? Vai K2. Aspetta, entra con calma K2. Domani mattina tanto non c'è nulla, perché finisce stasera. Già lo so, è quello detto domani mattina. Perché non ho proprio l'idea di dare il mio voto a chi non ce lo merita. Come avete detto voi, sono tutti uguali. una massa di promesse e intanto la gente si ammazza di problemi e i vecchi che non mangiano e tante altre cose qui, mentre ogni giorno ci sono politici, assessori che rubano a destra e a sinistra. E questo è grave, e quindi questa è la mia forma di protesta. Io la verità vorrei fare altro, tipo una bella mitragliata ogni tanto a qualcuno. Non ci sarebbe male, però non si può fare, quindi attuo questo tipo di protesta tutto lì. Antonello, da dove stai modulando? Sto modulando da Ossi. Da Ossi, sempre in provincia di Sassari, e poi anche la colpa è anche di Antonello Pomponio. Cosa c'entra lui? Entrato, scusate che ho fatto. Antonello Pomponio sta facendo gli occhi che ha piazzato il traffico da Sfiatta di Nola. Ecco, su 5 con la buonasera. Ian, buonasera, da Barracuda. Perché ho sentito Ciucucciù, comunque l'ho messo in ballo per quello, Antonio sta lavorando, si sta piazzando il palco alla piazza Grecia, una sfilata di moda, deve aspettare a smontare il palito. Bella voce guru. Avanti, buonasera, Porto Torres. Ok, buonasera circolare, diciamo Antonio, buonasera anche a te. Gianni, doppio rumo, poi mi sembra che ci sia Spaliero. Ok, buonasera comunque, niente. Mi chiedo una copia, non so se sono troppo alto di modulazione, vediamo un po', Antonello si mandi, avanti. E da parte mia, 9 più 10, la radio è Super 5, bella amplificata, e anche un bel tocco di portante quando premi, si sente abbastanza, come ti posso dire, rumorosa, ecco, quando prendi portante, chissà cosa stai usando. Ok, no, non sto usando niente di particolare, niente di particolare. Ok, vediamo un po', Gianni doppio rumo, ciao, buonasera. Ciao Sandro, buonasera anche a te, dai, dai. Oia, oia. Oggi c'è una bella ruota, dai. Mi piace, quando è così mi piace, infatti dovevo uscire a vedere una sfilata e non ci sono. Ma mi sono trattenuto perché ho visto che la ruota è abbastanza piena. Quindi mi fa piacere. KP2, a te mai, Claudio. Ma l'hai preso? Sandrino, il Pegherese, tutto bene, Capri, eri Santiago 9, poi c'è salito 9 più 10, poi 9 più 20, decidite cosa stai facendo, perché Sandro non ti ha sentito, dimmi sa. Ciao, dai, poi vediamo, andiamo avanti, Capri 2, magari cerca di schiacciare qualche bottoncino. Claudio, dammi un controllo generale che ho fatto un abbinamento, voglio vedere come sta andando, dai. Non aggiungo niente dopo quello che ha detto Antonello Barracuda. Modulazione ottima, presenza radio da vendere, tonalità medio-bassa, medio-alta, molto presente, segnale, non ne parliamo, 9 più 10, abbondante. Che te devo dire, sa? Meglio di così non si può uscire. Tutto. Buonasera, non so se mi stai ascoltando, perché dovevo le fare. Easy, easy, no. Che operazione ci deve fare? Prostata. Ok, prendo io un attimino. Ho sentito una vocina in lontananza. Suppongo che non sia propagazione. Mi sembra una modulazione già conosciuta. Se è quella che conosco io... il mitico Grobe, il mitico Grobe, avanti Grobe. No, ti saluto, sai che sto facendo TV e sto creando problemi un attimino, appena risolvo sarei il primo a saperlo. Ma dove li stai creando? Agli altri o altri? Agli altri, che è quello che creano a me. Ok, voglio chiedere una cortesia a Claudio, con la scusa della ruota. Un secondo solo, ci spostiamo al 20 e tiro i controlli e intanto faccio girare per K2, poi al canale 20 in FM e avanti K2. Ok, e vera, io le affitto adesso per salutarti, ciò va a fare, rientro al limite più tardi, però vi ascolto e lo lascio qua in quel deciso ascolto e appena è possibile rientro tardi. Vai doppio room. Ciao, allora buonetti e buone faccende. Noi siamo qua quando vuoi, non c'è problema. Gianni K2, vai e fai girare, se c'è qualcuno a cui tocca il microfono, mandalo, vai. K2 è morto, a chi tocca? Vai. Che ha già barracuda sempre. Ascolta, invece stare in AM, perché non ne approfittiamo dell'FM, ci sentiamo ancora meglio. Ma per me è uguale. Qua come mi ascolti il segnale, Antonio, in questo canale qua? Guarda, c'è 9, quasi più 10. Sarà di 5, però rimane leggermente povera, masticata rimane, non è bella limpida. Guarda adesso. Puoi regolare, basta. Ah, hai aumentato o diminuito la regolazione? Diminuito. Sì, adesso va bene, adesso ti ascolto bene, io sto usando il 68, forse che è un problema di questo apparato per la ricezione. Comunque adesso ti sento molto meglio adesso, sì. Niente, se qualcuno, se tutti ce l'hanno le FM, perché no? Si sente benissimo lì. La minestra cambia parecchio. Proviamo ad andare in FM, dovete andare di qua, da qui due c'è sempre 23 canali, come fa? Già è vero, attento Gianni K2. Qui ho vintage. Lo so, ma ragazzi, questa cosa sta combinando. Ovviamente te la fa una. Ma Gianni K2, mi piace da 3-2, lo sanno, lo sai. Ah, dai, io so che da riparare. Eccoci qua. Ecco. Ok, ci sono anche io qua, E vabbè, la parte FM, adesso siete entrati, avanti, riprendi. Ma già, no, era giusto la fare delle prove. Tutto lì, va bene, avete fatto il vostro dovere, sì? Stavamo pensando di andare in FM, però c'è K2 che è un uomo vintage, c'è solo 23 canali, come facciamo, sa? Se K2 non riprende, perché avevo capito 2-3 volte. A K2 c'è. K2 ha fatto il correttivo. Scusa, c'era l'FM qua, sì. Cosa? Aspetta che ci ho portato in ricezione. Volevo dirti, tu quell'apparato l'FM ce l'hai? Ci faccio l'FM io, allora mi ci butto la finestra. Sì, sono alla voce 80 e è chiaro che c'è l'FM. Va bene, se vuoi prendere l'FM per me non ci sono problemi. Fai vedere un po' la modulazione uno dell'altro, a vedere come si sente, aspetta. Non regolare niente, lascia tutto così com'è. Ma com'era la tua? Adesso sì che la minestra cambia. Com'è la mia? Io meglio. Caldissima, un bel caldo, è presente. Ok, vediamo un po'. La tua è... vieni meglio. Il caldo rimane un pochettino più presente, bella anche la tua, calda ma non troppo. La mia brucia. La tua è lo stesso, anche la tua è bella come quella di Claudio. Meno male ti sento con tutti e due la stessa tonalità. È una bella invenzione l'FM, se poi chiudi lo square c'è proprio una telefonata. È come parlare in VHF, più o meno. Sì, sì, è così. La riduzione, perfetto, la cosa migliore che potevi dire, è proprio così. L'FM, guarda, l'FM è una scheggia, è perché non la usiamo noi, ma è qualcosa di particolare. E come segnale, Antonio, è migliorato? No, sinceramente rimane sempre invariato, 9 più 10 c'è da parte mia. La radio è super, molto, molto, molto presente, è bella, molto, molto bella. KK, sì, anche la tua è... E certi dicono che in FM aumenta il segnale, ma mi sembra aver fatto una mezza fesseria a me, l'ho sentito già parecchie volte. No, siete tutti in fondo scala qua. Se non aumenta il segnale vuol dire che l'oscillatore è stato toccato. Forza, una è ampiezza modulata, l'altra è frequenza modulata. È chiaro che deve. Antonello è sul 60, tu sei sul 60, Sassari perlomeno siete tutti sul 60 da me. Col C80, col 440, con tutte le radio che ho. Mentre Sandro è leggermente più basso, è sul 40, ma perché è fuori zona? È normale che deve aumentare il segnale in FM, attenzione, altrimenti c'è qualche problema sull'oscillatore dell'FM. È positivo, si conferma. Ah, io adesso sono con 30 watt, Claudio, sono con 30 watt, quindi non è che di come ho passato in FM che ho schiacciato o se n'è andato a fondo scala. E un attimino, ok, lì sono a metà, non sono tutto aperto, variato? Certo che varia, è frequenza modulata, sei già arrivato a 50, se aumenti ancora vai anche tu a 60, è una cosa normalissima, non è che l'ha inventata Claudio Sparviero o Sandro Tigre, è normale, né Antonello, tutte le radio baracchini e non in FM, soprattutto radio base devono andare a fondo scala, poi c'è un baracchino normale, veicolare, te ne accorgi magari di meno, ma sui base sono tarati per avere la frequenza modulata proprio in massima potenza, quindi se poi sono state fatte delle tarature vuol dire qualcuno ha abbassato anche l'oscillatore per non farlo arrivare a fondo scala, ma è normale, attenzione. Io vedo la differenza cosa c'è adesso di Sandro, si sente più quel tocco quando preme portante, l'ho eliminato completamente in FM, AM è molto molto accentuato. Claudio Sparviero. Ciao Anteo, buonasera. Beh, io già lo so perché lui ha una radio un po' particolare, quindi avendo le schede separate, su quella della M il relay agisce in una maniera, anche perché è comandato dal microprocessore e spinge sulla LC, mentre in FM, essendo diretto, elimina quel tocco, capito? Lì. Avanti, doppio room. KK. Ebbene Antonio, buonasera, sto bene. Sì, buonasera anche a te. Ora ti sentendo in dite. Non ce l'ho più l'antenna 98, se passi ogni tanto via Milano, ma l'antenna non ce l'ho più, io sto andando con la direttiva dei 10 metri oramai. Ogni tanto già mi faccio sentire qua, chiacchiere, due prove, tecniche di trasmissione, capito? Tutto ok, vediamo se ti ha sentito, sì, l'hai sentito Antonio? Mi ha sentito a voi, Radio Cipri mi arriva, buonasera. Buonasera anche a te, per forza io già ti sento bene, sento bene a tutti. Intanto adesso mi c'avevo 5 minuti di tempo che entro, adesso vado a fare quello che stavo facendo. Ascoltare, va. Piacere che ti ho ascoltato, Antonio. Non ci sono problemi, quando mi senti entra a salutare, vediamo se ti ha sentito Sandro, avanti Sandro. Negativo, negativo da parte mia, non so chi Antonio sia, se è Antonio Crolli o meno, negativo. Lo sento forte, va l'antenna di gonta. Negatività che è domiciliare. Beh dai, comunque mi saluta tu, vado a fare quello che stavo facendo, se non mi capisco. Ciao. Ciao Antonio, ciao, buonasera anche a te, salutoni, è Antonio Bombolo, sa, Antonio Bombolo, guai. 5,9 più 20, quasi più 30, per amplificatore d'antenna. Se inserisco il amplificatore d'antenna per portare il segnale un po' più su, mi va a fondo scala, proprio mi incolla l'ago sia Gianni che Antonello, capito? Sa. Però tu ci sei quasi, se aumenti arrivi anche tu a fondo scala, spiuzzante. Per il momento sei su 40 pieni. Avanti, doppio room. Io aspetta che mi sto conservando la roba, non sei qua. Oddio, Capri 2 cosa sta combinando? Te dicevo. Attento, Peppino di Capri. Ma potrà laveare San Radio, mio Antonè. Lui è sempre ma non prende. Combinente, turbando, costa 125 stavano facendo. Sugar nera, no, la quella che. Praticamente questa era la mia, questo è il TSC80, questo era il mio, lo comprai nuovo, più di pacca. Poi l'avevo dato a Franco California l'ha dato a Gio Maria l'ha venuta a Capri, io sono andato a Capri e l'ho ripreso. Non ci avrebbe mandato fra Franchilini? Non credo, assolutamente, controllato, perfetto, tutto in originale, no? Non sono state messe le mani, assolutamente. Ci mette oggi tutta la sera con la direttiva e risponde benissimo. È 030 perfetto, NM, FM, SSB è centratissimo, no? Che si usa in una certa maniera, nel senso che io se due conversioni, sia il 140 che il C80, faccio sempre la temperatura a caldo, dei watt, e poi non la tocco più. Sto lì, sali e scendi, capito? Adesso stare sempre così. Stessa cosa con Mickey Gain, sempre sotto la C e lo lasci stare lì. Quando l'accendo, le accendo tutti assieme, quindi nel momento in cui vado a trasmettere la radio è già pronta. È un altro tipo io per usare le radio, le uso diversamente dagli altri, no? Io le accendo tutte e poi le decido di usare il 430 che è un tre conversioni che è sempre pronto all'uso, e se 80 il 140 farlo scaldare, mentre poi commutare le antenne, capito? Cioè, chi ne ha uno solo entra e vede la potenza a 10 watt, la mette a 50 a freddo ed è anche pericoloso, invece conviene sempre lasciarla un attimino e si stabilizza da sola, non sempre stabili. Così è Tigre della Maria. Così è. Va bene, io adesso stavo un attimino vedendo un attimino qua, ma hai capito? Ok, va bene, benissimo. Scusate un attimino che c'ho la bassa. Vai. Piena libertà, Sandro, siamo qua. Non fosse KP2 vuole riprendere, ma ce l'ha. Se Gianni o proprio Ruth. E dipende che apparato stava usando. Se c'ha, dovrebbe fare che non ce l'ha. Adesso lo bando laterali e AM. Allora dobbiamo ripassare AM. E io glielo ho detto, dopo la rientra non ce l'ho. A baracchi che vanno in banda laterale, in AM e in FM. Io facciamo l'altra. Non lo so, io sono andato con questa volta due volte a casa sua, ma non ho mai visto né quello che ha né quello che non ha, quindi non ti posso rispondere. Se ce li ha, uno le fa, basta metterlo e lasciarlo, in modo che ogni tanto fa bene anche alle radio commutare qualche passaggio in banda, qualche passaggio in FM, perché le commutazioni dei relay sono molto importanti, soprattutto su questo tipo di radio, ma anche sulle vostre. È che quando uno ha un baracchino base o che sia veicolare eccetera con le bande laterali, la M e l'FM, non le fa male commutare per lei e fare due passaggi, due fischi, due prove anche in banda, non è una cosa sbagliata, fa solo bene. Può carrellare col commutatore dal canale 1 sino a 28 MHz per chi ce li ha, fa solo bene. Che lì gira tutto il barabano e si assesta e non si inchiodano tutte le commutazioni. Vabbè, andiamo, allora aspettiamo a Gianni. Questo è un vecchio ricevitore, ma abbastanza vecchio, non so di che anno sia. Uriden Bearcat, ce l'hai presente? Già da un anno c'è il ricevitore, io ne ho uno portatile, che è il. Che non me l'ammento, ce l'ho qua, aspetta che mi tappo, ce l'ho, ecco, la Mario, che cacchio questo rimane, aspetta, questo rimane tutto marrone con i pulsantini, ogni pulsante c'ha un numero, i pulsanti sono un color cappellato, un bianco sporco, e sotto c'è scritto Unident Bearcat, e vi ascolto qua tutte le parti, ma c'è una ricezione, guarda, che è uno spettacolo, è portatile, ma certo a chiunque, guarda, a chiunque, poi lo metto in scanner, ho memorizzato un po' di canali, e ogni volta quando becca un segnale si blocca, ascolti, smettono di modulare e rifate la ricerca. No, è abbastanza vecchioso, dovrebbe essere americano, vero? E funziona veramente bene. Ah, oh già, non ce l'avevi tu quello lì, tipo quello. Ah, lui c'è un altro modello, era nero, di nuova generazione. Questo l'ho beccato, lo sai dove? Al centro ecologico qua, dove gettano la mondetta, in poche parole. Dentro la scatola, l'ho provata e funzionata la prima. Addirittura, issue. Funziona benissimo, non so se l'hai presente, è portatile, adesso si è bloccato. Ecco cosa sta ricevendo. Ah, sempre questa frequenza qua di prima. Sono modulate per dire, fanculo, il 145, sento tutti benissimo, sente veramente, veramente bene. Sei rientrato, sei, ti sicuro che ti un binende. Ma che ne so, perché mi stanno per una scatola, e qualche uno prende il schiaffo, ti prende. Ho pallone, la base è arrivata allo specchietto, quel pallone di pelle, la macchina. Poi c'è la Sanson qui col pallone, cioè no, non ho capito che io ti devo portare la macchina al carrozziere qualche giorno come. Non so, ragazzini che giocavano lì in via, così è. Ma pallonata da colpo con quelle pallonata, mia sorella. Ed è quella vicina che aspetta nel tu, ma i genitori qua non è solo. Non ho capito, proprio un coso, guarda. Non ho detto nulla, deve solo guardarti, mi dico. Sì, già ci siete già comunque. Claudio, ci sei? Ci sono. Perfetto, Claudio. Non è sincero perché ogni sera così, quando qualche, come si chiama quello telefono, come hanno fatto alla Volvo, fa, non c'è per comprare, ma l'ho portata, grazie da una parte all'altra, di ogni cosa. Papo, non mi voglio dilungare queste cose, se poi mi sento male. Già mi riprendi? Riprendo e mi dite come sto andando con questo apparecchio qua, dai. 5, sì, che apparecchio è? Midiland. Ok, ma che Midiland è? Ah, 48. 48 plus. Sì, io c'ho un po', 78 c'ho. Ma quello piccolino è già? No, un normale baracchino da baramubile, dai, non è piccolo, è normale. C'ho il 78 plus, c'ho, l'ho ritornato a 40 canali perché da tempo ho fatto la modifica, come si chiama la modifica, però adesso il microprocessore l'ho fatto a 400, ma quello se non è la concessione deve rimanere a 40, hai capito? Se l'ho pisciato non nuovo, in macchina non è attacco perché non è buco in macchina. Ok, alla grande già, alla grande veramente bene. E Barracuda riprendi. La radio è buona, sì. E stai già. Raffaele, intanto già vi fa bene a cambiarlo. Antonella, guarda. Claudio. Sì, è un po' una rovina. Andato a fissare, se trova un trasmettitore al coso. Oh, di tutto, ci sono andata che l'hai dato l'opera. Tutta roba nuova, nuova le fresca, mi ne porta, nuova. Nuova per essere nuova, anche male che mi coltivi da aperto le questa roba. A me stai dicendo, già. Raccuda, Ti stavo seguendo perché ero al telefono, non ti ho capito, stavi dicendo? Vabbè, ci vengo io a portare scarica, è sta roba nuova che punti, nuova di pacca. Te lo sto dicendo, l'ho beccata lì e guarda, sto togliendo il tappo. Sono delle scritte sicuramente appena con degli adesivi, con diverse frequenze, per dire 429-900, 172-900, 137-937, c'erano un sacco di frequenze scritte, sicuramente qualcuno l'ha usato, ma si vede per poco tempo, è buttato così nella scatola. Sono ricevitore, non è trasmettitore. Sì, ma quali sono le... siccome c'ha... non è continuo, capito? faccia le bande, e a bande quello, no? Per esempio quello del Black Jaguar che c'ho io portatile, sempre di quell'era lì, fa da 130 a 140, poi commuta fa da 140 a 150, poi salta fa da 160 a 170, e boh, in VHF, poi in U fa da 400 a 430, poi fa da 450, fa un salto enorme sino a 480, poi da 500 a 575. Esatto, una cosa del genere, infatti io avevo scaricato anche nel telefonino le caratteristiche, se riesco a trovarlo te lo dico, sì, non è, non sono continue, saltano, esatto, le frequenze saltano. Un ricevatore portatile decametrico, capito? Per le due e per le U, per le due e per le U. Sono belli, io ce l'ho, c'ho un bel pigiama, ti ho detto, l'ho provato a accendere, non accende, evidentemente l'adattatore che ho non va bene, perché c'ho quello dello IAGE, dove ne ho altri due portatili, un EV e un EN1, però non va bene, devo avere il connettore diverso, perché c'hanno quel connettore piccolino, capito, non va bene. Però sono molto belli. Ma doppio room tu ci avevi un Unilem, mi sembra che era. Sì, l'avevo dato a Massimiliano, mi pare, quello di Unilem. Adesso non mi ricordo se era lui o qualcuno un altro. Buonasera, ma così, tutta la sera telefonando, ti va bene, non fa nulla. E si è accatto. No, non ci ho ricordato il telefono a casa, perché è venuta la mia amica. Ma lei aveva preso un caffè, tanto non c'aveva i figli appresso, no? E vado a prendere un caffè, ma ci ho ricordato il telefono a casa. Poi mi sono dimenticato, sono già, ma dove te la chiamate tu adesso? Cioè, tu, ma sono qua, ricoglionito al massimo. Ma devi chiamarmi prima, cazzo. Io mi sono anche dimenticato. Tu mi dovevi chiamare prima, ma sono le 5. Così io mi ricordavo. E vabbè, non fa nulla, non fa niente. Ma adesso si è attaccato, c'è una bella ruota qua e mi ha fatto piacere anche a rimanere. Io ho detto, si deve essere drummito. Facciamo una tornata comunque, ciao Cla. Ciao Lugarie, tutto a posto? Sì, va bene. Ehi, ma va come andare adesso? Se stai avvicinando con 10 volt è chiaro che ci avevi lì dentro. Poi si è regolato a 13,5 come ti indica lo strumento, anche se tu lo metti al massimo il potenziometro, prima faceva da 0 a 15 volt. Io te l'ho messo da 0 a 13,5, regolato da dentro, quindi tu puoi va lì sui tibiasi con un potenziometro, non succede nulla. Faccio voi, siamo qui, c'è la alternata, eh. Sempre il solito segnale, aspetta, eh. Cla, il modello l'ho trovato, UBC50XL, UBC50XL, e fa da 66 a 88 MHz, 136-144, 148-148, vabbè, bisogna arrivare a 470-512 MHz. Allora, che bello diventato, guarda un po'. Io ce l'ho l'alternata, Luca. Sì, sì, io ce l'ho l'alternata, già. Sando, non ho detto segnale, ora un po' uno, due, tre, troppo, vai. No, negativo, negativo. Allora, ti dico che se in 5 compiti il modulare 7. Ah, no, sono portato, l'ho detto. Allora, io, scusa. Ti stavo dicendo, Luca, che sono quei segnali, di segnale e sette modulati. dice è tornata, cioè ho attivato l'alimentatore, che non è questione di alimentazione, evidentemente Sandro ti riceve così, e ti ricontro che stai usando un'altra radio, sa, quindi magari il segnale cambia, perché qua è sempre più 20 Luca, sempre. Comunque tu la sia che hai inserito l'attenuatore mio, sa. Fermatevi un attimino, guarda adesso che non sia, che se era troppo alta la corrente, che era troppo alto, era 15, guarda a vedere. Scusate. Mamma mia Gianni, ma perché non te lo fai anche tu? Portamelo che te lo faccio. Non serve a niente avere il potenziometro da 0 a 15, si rischia di bruciare la radio. Lo metti al massimo il potenziometro dall'interno, cioè il regolatore di tensione, dove ti fai la regolazione col potenziometro. La maglia 13,5, quindi tu non sbagli, il potenziometro rimane sempre fermo a 13,2. Io gliel'ho fatto fare subito la Vittorio quando ho comprato il box da 60 A, perché anche questo faceva 0,15, siccome in una posizione dove io magari passo e si può toccare il potenziometro, ma di trazione lo tocchi, bruci la radio, minchia, 15 sono tanti. Già, a me che bruci il tutto. Facevi questo, è una centrale pare. No, no, Gianni, occhio che sto scendo malissimo. Cosa ti volevo dire qua? No, da parte mia sono tutto aperto, non ho niente inserito, capito? Tutto aperto. E allora cambia totalmente il segnale lì, perché Luca qua è perfetto, è 5,9 più 20 come sempre, bellissima modulazione, crepitosa come da suo manuale, esce sempre molto bene le radio. Gianni, mettilo a 13,5, capito? Mettilo a 13,5 non lo Luca, mi facci tutto. Adesso sei l'alternata sempre? Uguale a quello che c'è a Luca. Il mio ce l'hai tu l'alimentatore. Ah, vantaggi con gli strumenti, aspetta, ma non sono fatto gli occhiali perché ce li ho messi. Il 1220S. Cioè 25 su 40. E quello c'è un altalino, l'ha fatto l'altalino questo assieme al 440, non lo do, quest'estate si è scappato che per un poco non lo prendo sopra, meno male di no. I più scarsi ce li ho io c'ho un Intec SP 68 che arriva fino a 80 A, e il mio primo alimentatore un Visa 12,6 volt 3 ampere. Scusate un attimino, voglio sentire un attimino Gianni, Capri 2, mi ascolti? Io sa che ti ascolto e non so se mi stai ascoltando tu, io ti ascolto e non so se tu mi ascolti quei paraggi. Ehi capo, dai, un attimino, ciucco. Sì, ti ascolto, no? Devo inserire l'amplificatore d'antenna. Ti ho ascoltato meglio, ma comunque ti ascolto, ok. Riguardo Luca, no, di modulazione Luca lo ascolto bene, sempre benissimo, bello, limpido, la modulazione è buona. Il segnale, io mi ricordo che Luca mi arrivava anche 9. Vabbè, forse magari, non lo so, per tempo, vabbè, pensate che mi ascolti, dai, non fai fatica. Adesso mi sei arrivato a 7 con picchi di 8 modulati, cosa hai fatto? Tu la sa, tu sei il segnale 7-9 modulato, 7-9. Boh. Ah, no. Ho inserito un amplificatore antenna per ascoltare Capri 2, dai. Però la mia potenza si è migliorata o si è peggiorato? controllate se la rete sta andando bene, se è sempre alternata. No, bravo, ce l'ha. Va bene già. Mia, Gianni, stai andando bene. Adesso stai andando bene, dai. Ma non stai usando l'alimentatore famoso al 50 però? Occhio già, stai uscendo malissimo, eh. Adesso stai di nuovo uscendo male, Gianni. Ah, c'è la batteria scarica, non è possibile. Adesso c'è uscito bene. Ero da lontano mica stavo parlando. Scusate, vado a cena, 3 o 4 volte mi hanno buttato a voce. Dati i guerrini, se ci siete riprendo. Per il momento ritenete qui tutti salutati. Capri 2, ho controllo radio, grazie. Adesso va bene già, ogni tanto scarico. No, ragazzi, va bene. Sta andando bene già, no, no. Vai a tornare. Non è che faccia tutto qua, cioè, perché a me mi è capitato una volta, tocca dire balle. Attenzione, con una male già. Tutto vanno l'apparato, ok, sto andando a cenare, se no mi chiedo un'altra azienda, ok, riprendi grazie. Ehi Gianni, doppio room, fammi sentire. Ciao Capri. Ciao, tutto sembra che c'hai un trattore sotto. No, no, no, no, non va assolutamente bene. Non avete idea di quali trattori sono quelle 1240S, 1220S. Mi Luca non lo vai a uscire anch'io. Se lo devi dare, dimmelo, che me lo riprendo io. Comunque ho un trattore con l'alimentatore, un 25A che non c'è niente da fare. Io l'ho usato a 120 watt modulati con 7400 in banda laterale, manco un bel ribucavo. Per quello ti ho detto che va bene adesso. Prima c'era la tensione a 10 volt perché c'era il condensatore bruciato. In ogni caso ti ho fatto la regolazione, quindi adesso va da 0 a 13,5. Prima andava da 0 a 15, uscendo il bordo. E mi è sembrato sentire Massimiliano, tu sei Massimiliano. Sia positivo, buonasera a tutti, dai, stavo ascoltando. Un attimino. Ciao Massimiliano, buonasera. Vediamo un attimino. Claudio, ho cambiato mic, com'è? Ma che parola è colpa, ma più tre su quel sito che su quella radio, Sandro. Ma proprio non lo bocca più. È come quando mi hai fatto sentire l'Omega e ti ho detto, sa, non tu granuda. Allora, quella radio lì col pane più tre è proprio uno spettacolo. Allora c'è la alternata. Sentilo con l'altro microfono, che no, non è alternata. Ok, va bene. Dai, ho messo il partner. Massimiliano, cosa ti sembra? Va bene, ma io l'alternata la sento, non sono voi, però io la sento. Massimiliano, buonasera. No, secondo me non è alternata, è talmente, c'è un'amplificazione super acuta e ti dà quegli effetti metallici quando preme. Ascoltate bene, c'è la ventola e c'è l'alternata sotto. Io non voglio dire altro. Tu dici, oltre a capo di Bonietta, c'è Bua e Civini. Non la sento io, Massimiliano, se no te la vedete. La verità, sento questo però mischiata forse all'alternata, io non la sento. Magari tu la percepisci di più, però la sa. C'ha ragione. Sì. Ok, aspetta un attimino, forse ero troppo alto di amplificazione. Oh, il volume del mic che ce l'ho tra lo 0 e l'1, eh? È una specie di fisco di sottofondo. Una ragione Massimiliano, c'è un altro. Sì, se non parli assieme alla ventola si sente l'alternata, però quando parli praticamente copri tutto. Ha ragione Massimiliano, sì, io non me ne sono accorto. Ciao Diantro, hai risolto? Non è tu, mi ascolta, tranquillo. C'è tutto, io. Non ci può fare nulla. Scusate un attimino, Massimiliano, passa sul vecchio un attimo. Sì. Lo guarda adesso, lo sto abbassando di modulazione, c'è che c'è quello, guarda adesso a vedere come va. Cioè va bene, ma se basso di modulazione già. E così guarda, strappa. Il tipo che ha preso l'alterrata è un rumoraccio. Sì, invece va bene, hai detto. Sì, così va bene. E allora era perché era troppo alto, dai. La batteria che si è scaricata, secondo me quando metti alto non ce la fa, non ce la fa, e quindi esce con l'alternata luce. Vabbè, ricambiamo la batteria e fate il gioco. Interessante è quello. Ora io ho una batteria nuova da cucina, se ti serve. Mi serve il Duracell se ce l'hai. No, non ce l'ho più il Duracell, oramai è diventata Mollicell. Lucrezia. Sì, siamo tutti di ascendo, Cerca i pizzardini invece, venire giù l'ultimo giorno domani, se no non faccio più le domande mie a te, hai capito Luca? Buongiorno, ma si usi? È l'ultimo giorno domani è l'ultimo giorno, scadono domani, giorno 18, entro domani devi fare la domanda, se no non è 17, né questo è o. Poi è 17. Vabbè, ma la devi fare entro domani, perché loro mi ha detto, quando ho sentito Pino, mi ha detto di farla, la devi fare entro lunedì, perché sennò non va in porto la questione, capito? Capito chi? Sono ancora lì a Deppinotto, Gigi, mamma mia, Giuseppe. E vabbè Claudio, è l'unica cosa persona che capisci tu a me, che io vado da lui, non faccio la fila, sono da lui e cerco lui e me la faccio in 5 minuti, capito? Solo per quello me. Sì, ha fatto il giro che fa, che gli occhi, ma cazzo di giri. Vabbè Antore, è il discorso, quando queste cose gli amici ci sono solo per quello, capito? Poi ci vuole un po' di questo, avere fortuna e se ti chiamano è buono, tutto è guadagnato, dai. E così è. Se non c'hai le persone giuste entrare in quell'ufficio, in quella segai, io un giorno sono andato, dovevo ritirare delle assunzioni che aveva fatto l'azienda, nominative, cazzo mi stavo innervosendo, cioè solo per ritirare, non dovevo fare niente, dovevo praticamente entrare e ritirare, oh non mi hanno fatto passare, ma ne fatto migliare un numero. Hai capito, è solo per quello, solo per quello ti devi affarrare con tutti, perché lì cazzo devi aspettare un'ora, due ore. Dall'altra volta c'era uno, un amico, che ha preso il numero, è stato tre ore e mezzo per quando richiamavano il numero, hai capito? 3 ore e mezzo buttato lì. Sì, la Madonna, ma io dovevo entrare, non dovevo neanche andare agli sportelli, dovevo andare lì nel gabbiotto, entrare e ritirare queste assunzioni nominative, e basta, e andarmene, ritirare proprio, non dovevo scavalcare nessuno, capito? Oh, non mi hanno fatto abbassare. Alla fine ho visto che c'era un impiegato lì che si è fatto fare fotocopio e ho detto senta, devo ritirare delle assunzioni nominative della società, sì, venga che sono pronto, mi ha dato la busta e mi è già andato, ma proprio una botta di culo, e se no ero in fila più di mezz'ora. E succede così, è com'è il coso, tutte le domande che fai, oppure vanno a fare le poste, cazzo ti prendo il numero, e se non conosci la persona adatta che ti fa fare, non ti fa il coso di fare la fila, se no ti devi fare 3 ore di fila lì. Io da mantenere in varie, c'è la biglia e luce. Va bene, facciamo girare. Gianni, l'hai messa la batteria? Ma non ce l'ho la batteria, non l'ho comprata. Facciamo la radio, no? Metti quella che ci avevi prima. Ma che male sta andando? Alternata c'hai sotto. Già, se non c'è alimentazione nel microfono, è chiaro che ti porti il rientro. Sicuramente è sottoalimentato, capito? Quindi ti porti dietro questo rumore di alternanza. Intanto rimani in QRV, cosa vuoi fare? Robbe non risponde. Sandro, sei rientrato, Massimiliano, non c'è più nessuno. Avanti Antonio. Io, no, anch'io vi devo lasciare che è pronto il caricabatterie. Buon proseguimento, 17 a dopo, dai, è già pronto, a più tardi, appetito a tutti. Cappa, buona cena, buon tutto, dai Antonio, ci sentiamo dopo se è possibile, dai. E allora, non mi racconto. Non ti racconto, niente, si lavora e basta, un po' di riposo, lavora per chi oggi, ieri, domani si rinizia la settimana, cosa vuoi fare, sempre solito 30 anni. Vabbè, è importante che tirare avanti, poi... L'importante è quello, andare avanti, poi per il resto, allora dice, a pila e luce. Il mio fu per sempre. Ciao Antonio. Buona serata, buona cena, buon tutto, alle prossime, ci sentiamo. Vediamo un po', Luca, riprendi. C'ho un male di cosa, sono un po' di belli, mamma mia. Che palle, cazzo. Ma sai tu un sil, gonfio, boh. Che ha detto, ma... niente. Ma adesso te ne vado a me, non sto cazzando di mattantone. Scusa, dove è formato tutti in tutta? Ma no! Ah, cioè, non sta segnando quello che stai dicendo tu, aspetta. Perché non vedo. Non vedo bene, allora. Sta segnando... 11. 13. Ma c'è arrivato 13,5, 13, Allora è tutta combattazione, guarda, l'ho lavorato 13,5, col tessere e anche la vignetta, perché quelle piccole sono a mezzo, se tu parti da 10 e 10 e mezzo, poi c'è quella alta 11, quella bassa 11 e mezzo, e poi arrivai a 13 e mezzo, in mezzo era. Quindi hai educato l'obbligazione, altrimenti l'ho tutto al massimo, proprio al massimo, al massimo. Allora, ben entrati, No, cazzo, ma ti pare che non ho fatto niente, ma adesso perché è al massimo, ed è a 13, non c'è una virgola 5, ma qualcuno. 13,5 invece, 13 era la vignetta, quella alta e il mezzo è quella bassa. Avanti Massimiliano, c'è anche Giuseppe Leoncini. Sì, a positivo, non so che ci sia in ruota perché sono entrato così al volo e non ho neanche salutato a tutti, sono stato un po' così. Va. Saluto a tutti che c'è in ruota, non so chi c'è, avanti Leoncini, allora per te. Ciao Massimiliano, Berto ti risente dopo una marea di tempo? Non so, c'era la marea alta, capito? Vabbè, lavoro, stai lavorando troppo Massimiliano. Sì, sto lavorando troppo e di più. Beato te, beato te. A chi troppo, a chi nuda. È sempre quello. Positivo, va, ok. Gianni, proprio rumbo, ti ho sentito, non so cosa stai usando. Avanti per te. Adesso sono con Magma. Ah, positivo, ok. Sto ascoltando anche a te con un pochino di disturbo. Ho regalato sulla batteria del microfono Sky che si conosce a Marta. Abbassando un po' il volume, troppo basso, si sente bene ma è basso. E allora se ha cambiato la batteria, c'è già 3 anni questa batteria. Andare, dai, vediamo un po' se c'è... ho sentito poco fa Antonello di Uso. Guarda a fare, avanti Sandro. Oh, scusate un attimino, faccio... mi assetto un attimo. Ok, vediamo un attimino. Vedi un attimino, cavo, siccome ce l'avevo ormai che è troppo vicino, diciamo, all'apparato. Vedi un po' in questo momento se senti la granata. Adesso la sento di più di prima. Prima la sentivo solo se rimanevi senza parlare. Invece adesso anche quando parli si sente. Cosa hai fatto? No, non ho fatto niente. Siccome Massimiliano ormai ci aveva lavorato l'orecchio, ma l'ha fatto presente lui. Prima, diciamo, magari nessuno ci ha fatto caso, non lo so, eppure il filo di massa è collegato, non riesco a capire perché. Come ha detto Massimiliano, quella radio, quella specifica proprio che stai usando tu, ha avuto da sempre, da quando è uscita, il problema come il Galaxy, il Saturn Echo a 220, la stessa cosa. Cioè praticamente da mettere un condensatore, saranno tutti modificati, evidentemente quella non è mai stata toccata, e ben venga così. Cioè da mettere un condensatore sulla linea della 220 sul trasformatore interno, ok, c'è da fare un ponte, ci sono i fili dell'alimentazione 220, quelli che vanno proprio, escono dall'alimentatore e vanno a 220, o le metti un condensatore di scariche elettrostatiche perché si porta presso l'alternata del trasformatore, non è niente di particolare, o le metti un condensatore all'interno oppure nel cavetto di alimentazione della 220 ne metti uno di quelli affari del computer e vedi un po' se migliora. Non è niente di grave, l'ha sempre fatto quel tipo di radio, io l'avevo risolto, anzi l'aveva risolto Carlo di Chiaramonti, CH23, quando io avevo quella radio lì, che era W0, avevo proprio quel tipo di radio lì, e faceva questo problema. Allora lui l'ha aperta e all'uscita della 220 gli ha messo un condensatore, come tu metti nella macchina che senti nella radio il rumore dei finestrini elettrici e balle varie. E la stessa cosa, sa, si porta presso praticamente l'alternata e il ronzio dell'alimentatore della 220. Corona spray ed è un isolamento per i pacchi da me. aria oppure anche su, sulle pratiche trasporto di riga. Sui trasformatori, diciamo, dai, in generale. Ok, ho capito, dai. Ho capito. Va bene, dai, vediamo un attimino più avanti. Dai, ne approfitto, vi saluto. Ciao Ravi, ci sentiamo alle prossime. Ciao Fabio, Gianni, Luca, Corde, Massimiliano e quant'altro. Dai, correti la batteria. Ciao, ciao, ciao. Ciao Sandro, dai, buonanotte, ci sentiamo. Ciao, ciao, buonanotte. Ci sentiamo semmai a più tardi, dai. Comunque l'isolamento è vero su quel tipo di trasformatore che avevi capito. L'ha fatto anche a me. Molto, molto spesso lo fanno sul supporto che ronza, non sono state bene le viti e quindi ronza. Però di solito lo faceva proprio sull'uscita del trasformatore, perché l'isolamento, ho capito, quella pattina coloro che si mette sopra, però lì è messo in una maniera tale dove l'isolamento era molto, molto scarso. Dopo la seconda serie che hanno fatto di quel tipo di radio, l'hanno addirittura isolato, c'è un rivestimento di plastiche. Va bene, microfono per Giuseppe, vai Giuseppe. Ehi, io vi saluto, dai, vado a cena e ci sentiamo tutte le prossime, se coincide. Ciao Claudio e tutti quanti i componenti del canale 5, dai, vi saluto, buona carica a tutti quanti, ciao ciao, cuoretti per me. Ciao Giuseppe, alle prossime, ci sentiamo. Andiamo. Oh yeah. Buonasera, io sono. Tu sei, buonasera a te. Beh, risentito. Io è 9.25, tra poco andiamo a mangiare anche noi. Io Claude. Io fra, meglio che non riprenda. E tu vanno un bel tempo. Evidentemente si blocca proprio, evidentemente c'è l'amplificatore moneta, con l'umidità sale anche il problema. Dai. Io tu abbiamo risolto questa cosa. Organizzate che risolviamo, perché ho risolto proprio con molta molta facilità. Vabbè, dai, ci aggiorniamo, siamo quanto. Avanti, lo più lungo. Io allora ti saluto chi è andato via e me ne sono andato anch'io, dai, passando a cena. Sentiamo ragazzi, buonasera. Ma che magari Budo è maniato, cari. Oh, basta, era vero, ma di poco. Oggi avevamo per le tagliatelle, agnello, falco, l'unica, come ho brandato, è un po' qui della comunità, perché viene questo fatto, stomaco, clama, forte, qui, stanotte, sì, ho cenato. Cagarella, mi. Qui voglio pure cagare. Schigionera. Faccio cramo. E c'è il virus. Mi ha domandato, che prego. Ehi Anto. Ho saputo che ti stava cercando Antonello. Antonello di Fusaro? Te l'hanno detto? Sì, devo ritirarmi del materiale. Tutto fatto, tutto fatto. A Cagliari dicono a Schigionera o Capri 2, capito? Quindi avevi proprio un problema di Schigionera. Ho capito, ho capito. Vabbè. Sono cose che capitano. Va bene, ciao allora Gianni, doppio room, buona cena, io altri 5 minuti e poi vado a cenare anche io. Vado a cenare anche io. Stavo pensando a tutto questo Antonio Grodde, questa cosa. Ma il problema praticamente è nato dal momento in cui hai tirato su l'antenna. Ma c'era anche prima, c'era anche prima. Te l'ho detto, è un problema esclusivamente di cosa? Di neanche di potenza, perché sto uscendo a bassissima potenza, guarda, adesso sono quasi a zero. È un problema di amplificatore. Infatti però non bisogna toccarlo, bisogna dirlo all'amministratore, gli faccio una lettera con tutte le copie di patente quanto ciò e dopodiché si arrangia. Infatti puoi giocare con la carta tranquillamente, senza bisogno di copie. Se sei in buoni rapporti, intanto lo chiami e dici, senti, io ho questo problema. usare le radio, ma in questo modo io ho grandi difficoltà, quindi che cosa puoi fare? Lui ti ha chiamato lo tecnico, assieme al tecnico le dici direttamente ciò che succede, lui sicuramente farà una prova con il misuratore di campo e si accorge che il segnale sarà troppo alto con la centralina. È una rottura di palle, mamma mia, ti vuoi, è una grande rottura di palle. Yeah, ma perché poi così sto uscendo lo stesso, mi stai sentendo? Sono le 40 qua, cosa pensi che con 5 watt non ti ascolto, senza antenna? Ti stavo dicendo, il problema è che la maggior parte di questi impianti sono fatti male, perché tu immaginati che anche nel palazzo di fronte dove avevo un amico mi stava sentendo. Ma perché l'amministratore di condominio non sale mai a vedere l'antenna, quindi cosa succede? Quando vogliono fregare l'amministratore dicono che hanno cambiato l'antenna, invece danno una truppiata ai trimmer dell'amplificatore d'antenna. Siccome qua è a visione ottica Monteoro, non fanno altro che non cambiare niente e farsi pagare come se l'avessero cambiata. Intanto sai benissimo bene che l'amplificatore d'antenna non si può usare, ok, è fuori legge, quindi c'hai già il coltello a mano. Dal momento in cui c'è l'amplificatore d'antenna, tu al signor tecnico le puoi tranquillamente di liberarlo e le metto l'antenna diretta, visto che Monteo ha vista ottica, perché anche qua inizialmente era successa la stessa cosa. Quando arrivai nel 1985 ho piazzato l'antenna e mi suonavano il campanello, mi facevano squillare il telefono, mi parlavano di tutto e di più, e ho scoperto che sopra c'era l'amplificatore dell'antenna direttamente da quando era ancora cantiere. Ho chiamato così un amico, ho detto va una cosa, io staccane tutto, metti l'antenna diretta, ha messo la centralizzata diretta, dall'85 a oggi non si è accorto nessuno, né che ho tolto il amplificatore dell'antenna e né nulla. Sì, ma sai come funziona? Il problema è questo, che l'antenna nasce con 12 utenze, perché i piani sono 7 e gli appartamenti sono 2 per piano. Poi cosa succede? Ogni appartamento, ogni volta che ristruttura, per una questione di comodità, come è successo in questo, ti fa 4 prese TV. Ciò significa che è come se tu hai un rubinetto, capito, in piena mandata, e inizi a dividerlo a più persone. Alla fine ci sono gocce per ciascuno. Quindi l'unica soluzione è quella, anche se sei a visione ottica, di dargli una truppiata o mettergli comunque un amplificatore d'antenna, un preamplificatore d'antenna. Ed è quello di lì che si tira dentro di tutto, soprattutto se ci sono i cavi marci, soprattutto se magari è di pessima qualità il preamplificatore d'antenna. Poi sai benissimo che basta che all'interno del circuito elettrico del preamplificatore ci sia un diodo, mi sembra che si chiami Zener se non sbaglio, che fa da ricevente, capito? Quando ci sono fatto per gli occhi ha messo un partitore d'antenna. Partitori ci sono in ogni appartamento, ne ho 4 io qua. 4 stanze e 4 partitori ho già, non è quello il problema. È che come dice Antonio, ad ogni partitore c'è un arrivo, quindi ripartito per, tu immaginati, tutte le stanze che ci sono, tutti gli appartamenti che ci sono, è chiaro che il segnale va un po' a indebolirsi, automaticamente come dice Antonio tirano su l'amplificatore, il segnale risale, quindi tutti vedono bene. Lì ti può rispondere Gavino, io in quella materia lì non è che per sentito dire, per visto fare, ti posso rispondere, ma tecnicamente non è che sono molto preparato. Però il fatto è che io ho avuto il problema dall'inizio, quando proprio sono arrivato qua, che avevo addirittura la Grand Lane, e l'ho tolto, l'ho proprio tolto, l'ho staccato, anzi l'ha staccato il tecnico che se l'aveva tolto, l'allenatore Renato, non so se mi fa poco, Aggi, S0 Aggi, l'ha attaccato Renato, ha collegato la diretta delle due centralizzate, perché sono una centralizzata in una scala, una centralizzata nell'altra, li ha messi diretti e mi sembra che il perfettamente c'è ancora nella soffitta, in terra, dall'85, non si è accorto mai nessuno che è stato attaccato il preamplificatore dell'antenna, immaginate tu quanto è forte il segnale. Ma il problema lo sai che cos'è secondo me, per quale motivo? Non è tanto dell'amplificatore, è che il preamplificatore non necessiterebbe, o meglio, non necessiterebbe così potente se l'antenna fosse stata nuova. Siccome l'antenna di solito è un ferro vecchio, perché per evitare, per fottere, per evitare di cambiarla, cosa fanno? Ti ripeto, danno una trubbiata ai trimmer e fanno finta di fare il lavoro. Se invece cambiassero l'antenna e mantenessero il preamplificatore nella condizione normale, allora non si verificherebbe questo problema, soprattutto se cambiassero i cavi, perché se mi è che un cavo sbucciato, un cavo crepato, ti tira dentro le spurie, ti tira dentro di tutto. E poi bisogna vedere se è collegato giusto, se ci sono quegli adattatori rapidi, hanno una riflessione allucinante, un casino fanno quello, quindi lì ti ripeto, ti puoi rispondere tecnicamente Gavrino, che è il suo lavoro, io l'ho visto come l'ha fatto qua, figurati, ci avevano appena consegnato gli appartamenti nell'85, quindi erano nuovissimi, io come ho avevo già fatto predisporre la staff e tutto, quindi ho messo la prima antenna e ho avuto subito il problema, subito, immediatamente, avevo addirittura la stessa radio che sto usando adesso, avevo, non la stessa, no, comunque, tipo questa, avevo 757, la linea completa 757, la prima serie, quindi ecco, la radio non può essere, perché sono radio professionali, quindi non è che a spurie niente. Lì parlando eccetera mi sono un po' documentato su com'era fatto il sistema d'antenna e abbiamo riscontrato questa centralina, l'avevamo attaccata prima in una scala e poi nell'altra e non ho mai più avuto un problema, mai, ma a elevate potenze in tutta la maniera, perché io uscivo in quegli anni 89-90 c'avevo il TL922 attaccato 24 ore su 24, quindi immaginate come uscivo, perciò non mi hanno mai assolutamente rotto le scarpe, quindi il problema è quello, non né potrebbe essere né niente, è quello lì, quindi bisogna che assolutamente consulti l'amministratore e fare qualche cosa, perché nella posizione in cui si trova adesso il diritto è legge, capito? È la tua parte, quindi lo devono mettere assolutamente a posto. Infatti, ma ti ripeto, siccome è la prima cosa che dice il condominio, dice finché non c'era lì la cosa stava andando bene, adesso si stanno avendo problemi, non sapendo che pago al pari di come lui paga il canone e come io pago il canone TV, io pago anche la concessione radioamatoriale, quindi ho diritto, ma non solo, concessione materiale e concessione CB, quindi ho diritto di trasmettere con le giuste potenze nel momento in cui pago un servizio, diciamo. Anche in 2 metri e 70 cm lo fai entro. Negativo, quello no. Eppure l'antenna è più in basso di quella della televisione. Mi capita solamente utilizzando la 27. Anzi, a dirti la verità, qualche volta forse anche in 2 metri l'ho fatto. Qualcosa sì, perché l'altra volta mi hai detto che eri a bassa potenza proprio perché avevi un disturbo, perché l'ingresso principale è il VNU, quindi è proprio quello il sistema che si sta creando. Vabbè, dai, io vi lascio, immagino che ha chiamato per la cena e c'ho anche gente per l'altro. Quindi ciao Antonio, ciao Gianni Operium, ciao Antonio Bombolo, Massimiliano, se c'è ancora, Sandro, Antonello, insomma tutti quelli che erano qua sul canale 5. Buona serata a tutti, buon fine domenica, nel caso ci sentiamo dopo, altrimenti ritenetevi tutti salutati. Microfono per te Antonio Bombolo, ciao, buona serata a tutti. Ciao Claudio, ci risentiamo le prossimine. Avanti il Grode, buonasera. Ciao Antonio, buonasera anche a te, come facendo TVI, quindi ho un po' di problemi. Rimango in QRX, vi ascolto, saluto Claudio, buona carica batterie, ci sentiamo alle prossime. QRX per me, Luca, riprendi tu se ci sei, se no a girare per Antonio Bombolo di nuovo. A tutti, ci sentiamo dopo, dai, già andiamo più a mangiare. Ci sentiamo dopo, buona serata a tutti, a presto, ciao ciao. Ciao ciao. Ma cosa, Anto, per non leggere il libro, e poi hai già una coincidenza di osso. Infatti farò così, dai, ci sentiamo dopo. Poi ti butto qua l'antenna. Ciao Luca! Mario Maria! Mi accorgi? Mi accorgi voi? Perciò ti stavo chiamando su coso e non mi ha risposto. Ah, io mi sta chiamando su Facebook, ma non ci ho installato il coso per la videochiamata. E tu va a fare lo stesso. Non ce l'ho, poi c'ho praticamente la webcam, perché si vede male. Si vede male la webcam, però già funziona lo stesso. Si vede scura, devo aggiornare, perciò l'ho formattato, no? E non ho messo il driver su originale. Lo devo scaricare, disinstallare quello che c'è, e mettere il suo originale, capito? Ti ho detto, beh, non mi risponde. Però sei accorto, vero? Sì, ho avuto la chiamata, sì. Va bene, tutto bene? Sì, insomma. È una cosa. So che, perché ho sentito io queste voci, ma non so se erano vere. Quei lavori che facevate voi, è fatto nel senso, voglio chiedere a Luca. Quei lavori che, cioè, che mi chiama comune, eccetera, eccetera, dice che è passata le cooperative, è vero? Non c'è niente. Sapevo, però. Ognuno dice la sua. Sapevo, però non mi ricordo se. Cioè, oddio, non è che non mi ricordo. Non so se sono passati oppure devo passare, Gabba, io ho sentito dire così, addio lavoro, cazzo, se passa così. Siamo pregati. Ma perché no, è uno schifo, non vedo come anche andata a puttana. Ho deciso quest'anno di non andarci, mi ha alzato a capo, ho detto figlio di venire in culo. Ma vabbè, sei più giovane, siccome devi votare, anche se non ti danno niente, domani mai ti chiedo, mai votato, hai votato, mai ti sono lavoro, mai guarda anche quello, sarà difficile, ma comunque. Ma cazzo mi dà il travaglio, che se ne sono buca di dolci. Vabbè, sempre di latte, no? E allora, sempre là. Un pochettino trasferito il posto, ma già sono sempre là. Tutto a posto, sì. Tutto a posto. Quasi sempre, io sono sempre quasi qui a Milano, sempre lì sono. Per la qua, no? In via di Erdo ci sta andando poco. Oh, andi per la qua, A fumare? Picca, adesso è quel di che non fumo più. 4 anni che non tocco più le sigarette, mi assai. Beh, quanto non vedi, non è facile comunque. Uno dice di no, no, poi dipende. Io adesso non mi interessa, ma chissà, col tempo, chi lo sa, io spero mai più. Ma se uno fa la scelta, non la fa. Per non tornarci più, se uno poi ci ritorna, cazzo, cioè, io ho scelta, non ne voglio più sapere, poi ognuno fa, nella sua vita fa quello che vuole. Ci mancherebbe. Me ne importa, va bene così, sono soldi risparmiati, con quei soldi, cazzo, mi pago Sky, mi guardo le cose che mi piacciono e mi compro altre cose. Bravo, bravo Antonio. Fai ragioni bene, bravo. E ti mangi un chilo di garri. Siamo di chi di burro. Allora, va bene il culo la sigaretta. Non mi serve, io la compro per gli altri le compro, ma per me non me ne può fregare di meno. E non è facile, perché uno ne fuma tanti anni, io ho 20 anni che fumo, per 20 anni ho fumato. E capa, ma Luca, quando uno dice che la cosa non gliene importa più niente, è finita e basta. sentire che ci ritorna. Tu conta. Ho iniziato, io avevo 13-14 anni e ormai sono 34 anni. Ne faccio 40, sono 6 anni quasi che non fumo. Bene, bene. Arriva uno ogni tanto, nulla, proprio nulla, zero. Arriva mi dà anche fastidio, faccia tu. E che a me mi dà fastidio, la verità ti dico. Perché che siamo all'aperto, non mi interessa niente, però siamo al chiuso, no, no, me ne vado, no. Da poco è successo, aspetta, ma cavolo era. Non mi ricordo chi era, aspetta. In macchina forse, non mi dico, forse sì, in macchina. Ah, è un Giuseppe, un mio amico, che stava come di macchina, ma tu mi chiama Marzenni, insomma, aspetta, che troppo dopo, boh, e ora ti guarda di fumare, e ora la macchina è la tua. Non ti capisco, ma abbi rispetto, cavolo, eh. C'è una caduta tanta la roba, ma era uno schifo, ma a me fa sì, un bel male, vabbè, se non vuoi qua, purtroppo, usci, lasciamo lì qua, se la fanno peggio. Beh, ma, no, io è come, sono tornato come prima, come che non l'hai mai fatto. Per quanto ne hai fumato? Sì, una quindicina d'anni almeno. Perché? Io 29 ne ho. Sei iniziato alla vita di 14 anni, dove si è? Ah, poi sto dicendo una quindicina, ma forse... No, ho già preso 16-17 anni, una cosa del genere. Forse non me lo ricordo manco io. Aspetta un attimino, che cambio la radio. Sei arrivato a 12 anni, tu. Sei adesso qua, va. Ca... mi sente? Un attimo. Suono. Sì. bella. Poi c'è una macchina che dice, c'è un suono, vabbè, non costa 200 euro, ma c'è anche quello lì un suono originale, come è forte, come è potente. No, ma questo è professionale, te lo devo far vedere, un giorno te lo farò vedere, un giorno che capita, te lo devo far vedere, perché è proprio professionale, reale, non è una cazzata, e dicono quanto costa. 200 euro, bello. Come comunque lo senti bene? Se ti sto dicendo che lo senti veramente bene, lo porti dove vuoi. Ti sta? Ho preso, no, non è che ci sta la mobilità. Lo piloti tu dal telefonino, o da qualsiasi cosa. Sì, ma non puoi caricare di musica, non c'ho una memoria. Però adesso, scusa. Lo puoi far andare con tablet, lo puoi far andare anche col computer, basta che carica il petto, lo fai andare, lo fai andare con altre cose, cioè se credo tu sei il computer normale, agli attacchi tu piaci qua, out, gli attacchi in capo, out, e l'attacca al computer. Hai capito? Se no se c'è lo puoi collegare con il telefonino o con l'iPad o un altro tipo di tipo. Bene, bene, ho capito. Sì, bellino. Sì. Vabbè, ma mi sento io. Vabbè, già faccio un lavoro, dai. Vedi un po' alto, come davanti a 17 Gianni. Penso non ti ascolta. Ascolta dalle campo di numero, ma io non ascolto a lui. Guarda, non lo puoi aumentare. A che ora? Non capisco di ora a capo lo guaracchino fatto. Certo, sto uscendo fatto per quel motivo lì, perché il cazzo di nonne non vuole fare la televisione. Se non è che è, però, se voglio mi faccio sentire a muro. Attacco quel cosettino, vedi? Vabbè, ti fa sentire meglio, no? Scusa, già, non lo senti per niente. Ragazzi, buono, sempre lo stesso problema, che non c'è antenna. Io sto andando, lui mi ascolta, sto andando quasi con 140 watt, sto andando qui. Capito? Lui mi ascolta per quello, altro buonasera, no? Mettiti un'antenna alla Madonna, fai qualche cosa, che così ti ascolto, va. Una cosa che non si può nella posizione mia, capito? Ma io mi siete 140 watt sto sparando, capito? Se no, se sono male, capito? Devi anche ascoltarmi, qui c'ha 140 di uscita l'apparecchio, hai capito? Lui, come ti arrivo lui il segnale a te e di radio? Bene, sta andando. Sì, 8 e 9, la radio è 5, bella, bella, non è amplificata, però vabbè, ti ascolto bene, perfetto, vai benissimo. Ok, sto usando l'MP5, sto usando, niente, il Mira, la fattore, la mascota, e qualche altro apparato, per esempio, forse quando attacca un po' l'innoiti riuscivo a percepire, perché è più generoso, cioè forse davvero la conversione, però non lo so. Adesso sto usando il MIDI, la faccio manco a portata di mano perché non è fatto dal banco, e sono usato questo per dare un bel fermo. Niente, mi dispiace perché ascolto a tutti, madonna, fai qualche cosa tu, quando vai da qualche cosa dell'antenna non si riesce a scattare, ti aiuto io, ti aiuto, se ci dà una mano. Riprendi a tu. Storia altro che parlare, no? No, che è storia vecchia, per carità. Certo che io non si può. Poi sto mangiando una pasta. Pasta ti sei mangiato. E anche io il frigorifero li ho comprate. Diciamo perché se mangio salata, mi fotte una di notte, sto mangiando questa mattina. Cazzo, oh ma di là, uia, bene, ci vuole noce magari un po', non lo so, ma lei c'è una cosa anche, però, non mi, cosa latte peggio, ci vuole noce magari un po' meno, facciamo pure un po' d'acqua, un casino. Oh, come se qua qui di dosso, ma qui. Con quanto arrivo al monte? Ingegnato, con quello paracchino normale. 10 e più. Oh no, sto usando quattro. Sto usando quattro parte, non è che stia usando chissà che cosa. Ma la radio buona, un po' fuori dalla radio, ma va bene comunque, dai. E già va bene, ho già voi di più. Normale, è un paracchino normale, l'alfagliette Brios. Lo tuo e tutte cose. È molto bene comunque, non c'è problema, dai. Giappa. Allora provo l'altro, mi si arriva al muro. Giappa, adesso provo ad attaccare quello... come cavolo si chiama, prova a attaccare l'Insta che è bello potente. Prova, sono Gianni, capi due, sicuramente la prova la posizione, capito, e noi invece che te la fai fuori, prova a vedere, là. Adesso poco a poco ti sto sentendo, vieni. Io non ho capito. si è scusato lo baracchino, era un fuggibile. Prima lo stavo sentendo, quindi non forte, però mi stava arrivando stava. Luca, mi si è sentito il baracchino. Qua, qua, no, chiamare a Gianni. Capri 2. E a momenti sento la cosa, la l'accenta che sta modulando, c'è anche un po' di QRM. Però prima lo sentivo bene, bene, no? No, Santiago, Santiago 2, 3, però adesso nulla. A momenti prima mi stava arrivando. Ma guarda se sto arrivando adesso. Sta uscendo sto. Fatti in arrivo, vabbè, siamo con un casino qua. Via, via, sento Capri 2. E a poco a poco ti sento, ma a casi, mi arrivi a tratti non arrivi, non lo so cosa stai toccando. Poco a poco ti sento adesso a tu, ti sento, tu mi ascolti. Sì, a capo che ti ascolto, ma c'è qualcosa, cioè, mi poco fa mi si aspetta la radio. A tratti, secondo come fanno le onde, perché c'è anche quel QRM, capito hai? Non è pulita o qui la la frequenza, perché qui come siamo in basso forse, come ne porta tutta qua sarà di quello del QRM, hai capito? E se il QRM è quasi a 3, però c'è il percorso, adesso l'ho sentito, poco a poco l'ho sentito. Già mi sento, vai! Poco a poco ti sto sentendo adesso, si vede non si sta passando il cuore, poco a poco ti sto sentendo, no? Non ti sento come sento a Luca, però poco a poco ti sento, tenta di fare qualche miglioria nell'antenna, madonna, ti diamo una mano, guarda, secondo me da qualche parte non si può installare una Toma Grand Play. Soffitta e poi come si chiama bisogna quando c'ho soldi proprio. sarebbe allora che si può fare il lavoro, perché anche lo sai con le luci, se io portavo qualche razzo, poi abbassarla è un come si chiama, e non è che fa lo scopo, e tutto quanto da calcolare, devo forse buttare un palo più l'angolo, hai capito? E fare circolare tipo un'antenna telescopica dentro, e poi fatti dei buchi al palo, saltarli di come si chiama i dadi e bloccarla, hai capito, con dei bulloni, modo quando poi la voglio dare si può abbassare, così sarebbe l'ideale, un bel lavoretto, hai capito, ho fatto una volta per tutte, perché poi se l'altro solo col palo rigido, non c'era difficile, capito, è un rischio grosso, è un moto, già lo sai un po', e tu, vista così, diciamo, adesso piazzata sempre un attimino, e quando l'ho piazzata un mostro con la stella. È una più grande, la giù c'è una piccola, un po' due di sotto, ma poi non è pesante, è leggera, ma oggi è il vento, tu come no, l'ho piazzata, ma l'ho piazzata Claudio, giù e Franco, e poi l'ho passata a me, e io non c'è un bel di vento, non un casino per te davanti, non è pericoloso, non è pericoloso, e diciamo che sono riuscito a piazzarla, vabbè. Sopra, c'è già, quante anni c'è? 4, 5, 3, non mi ricordo quanti anni c'è piazzata. 3 o 4, una cosa del genere. Ma se devo salire uno di questi giorni, devo permettendo che devo abbassare un po' la spirale che ho stazionare a più di 2 metri sui canali alti. Finale 28, 79, capito, sono 140 qui. che è tecnicamente nuovo, in quello che fa Volvo K che riceve non dal bene, controllato già è come si chiama, i binari da cambiare. Che ho rifatto? Deia. Vedi, guarda, vabbè. Quello vuole guardare a me, lo usi per ascoltare, ma ho i buoni, non lo voglio far ascoltare. A dire me è tornato, sì. Io mi ha acceso adesso dopo che ho finito di mangiare. Già. E invece che provo a vedere, se non mi ha acceso il televisore mi vado di Max. Ma cosa ne fai? Quando lo aggiusti poi te li rivendi, cosa te ne fai? Ma spendi soldi per nulla. Già così vuol dire che azione, no qui, c'è il capo di 5 che mi rompono le scatole. Non è che, ecco, mai sono andando. Dall'altra volta non si sono accorto e non ho mai mai tirato questo carro. Ok, devo vedere. Ma anche le cose molto dopo vedendo la batteria dentro. Senza l'altra volta si può attaccato il collo del modulometro. Ok, siamo in dare. Ora. Batterie, bisogna che mi compri quelle. Sono a radio. Ogni volta più di 4 euro costa. E niente, piano metto. Noi non usiamo questi apparati, riprendi già. E cosa ne hai fatto adesso che la radio aumenta da 3 volte di più? No, ho girato il collo perché stavo guardando già il modulometro e non si sta a radio lui. Forse da basso, perché la batteria se ne sta andando. Batterie durano poco, queste mie cugine gliel'ho detto. Se stai facendo ricco, ma adesso me le compro le caricabili, me le carico io. Cazzo. E capito, la batteria già è che perdo. Adesso vedo anche la lancetta, prima non la vedevo, ho stato appena appena. Ok, riprendi Luca. E già, una radio allucinante, mi ha detto, sono qua, io non ho detto niente oggi, nulla, ho detto sono dolci, sono detto due pezzi di fritta da poco fa, ma ti dico, vedo un po', una mozzarella, qualcosa, ma c'ho fame, c'ho fame. Fai a mangiare, va. Gianni, comunque c'è forza, quello lì che è il microfono è asciuga. Ho l'MP più 5 già, lo Sciuscia batteria scarica glielo ho levato, ripeto perché la tedesca, c'è scritto Inde che meno su, a tutti gli effetti già, perché sono gli schemi di quel microfono ed è su, anche nel circuito stampato, non so perché non ne ho più visto io perché ne volevo acquistare un altro, hai capito? Magari la Inde che li ha comprati da lì e poi. Questo me l'ha regalato per tavolette, questo su, hai capito, e niente, la batteria però è scarica, ne ho comprato tipo in pochi giorni, due o tre, non so perché si scaricano, posso mettere in un microfono, no, perché non valgono a nulla, però adesso me le compro, via, spendo una volta sola, ho caricato batterie e me le carico, e se no ho il 9, mi lo volto in modale, mi lo contende. Ce ne sono qui, lo sai già, una decina ce ne sono, però non ce ne devo buttare. Hai capito? Quelli sta andando già, no? Come segnale, come radio. E a quello lì apparecchio è. Ok, perfetto, questo è il Villa famoso e non è starato già, non è starato perché ho controllato la radio, qualche pelo di cosa, ma sono fesserie già. Vaga. No, già va bene. Cosa ti volevo dire? Che le batterie del caricabile non si conviene prendere, non ti durano manco 5 minuti e si scaricano subito. A caricare ci metti per dire 2-3 ore e dopo ti durano poco, non ti durano quasi nulla col microfono. Si conviene prendere direttamente, sai dove? Se ti capita di andare a Porto Ottone, se vai alla Elcom e le stesse batterie, quelle dura, c'è il costano 3 euro. Un sacco di risultati, se no già l'idea è un'altra, e così compro un capo a più fili di microfono, hai capito, le cambio il connettore a tutti gli apparati, invece di essere a, come si chiama, a 4 sarà a 5 o a 6, e prendo la corrente dall'apparato, metto una resistenza e prendo la corrente dall'apparato, che a quel punto faccio così, già sto per stare sempre cambiando batterie, no? Allora, se tu l'MB più 5 a me la batteria mi dura dai 2 a 3 anni senza cambiare. Adesso me la devo cambiare perché sto scendo con l'alternata probabilmente sotto l'intatta. E mi dura 2 anni e mezzo, là. Quindi è strano che ti costruisci batterie così. Sai cosa dovresti fare? Un interruttorino che quando tu spegni il microfono, spegni, stacchi la batteria, capito? Nel tarlo in realtà stavo addirittura attaccando, già è attaccata nel tarlo, adesso il tarlo lo devi mettere le connessioni, le devo rimettere, perché l'avevo connesso per trovare il 140 e le rimetto le connessioni al tarlo, dipende come era. Ieri le ho fatte le connessioni delle, come si chiama, delle SM20, 2 minuti era già collegato e lo conosco come le mie tasche, perché gli avevo attaccato il collo per darlo a mio figlio, il connettore. Hai capito per quello della fisarmonica? No, non lo so operarlo perché siccome c'è un cavo già, con quel come si chiama, come quello del Balanoa, se che vanno 4-5 fili, ci vanno, era preciso, se no toccava l'incasinare la fisarmonica a cambiare. E ne l'abbiamo staccato da lì, poi ne ho comprato 4, ne ho comprato di quelli lì, però non ne ho mai piantato, credendo già, siccome c'era vero il colore dell'SM20, però non c'erano i colori e lì ero incasinato. Meno male che Stefano e Antonio sono stati di grande aiuto, veramente, mi dispiaceva, in 2 minuti l'ho fatto, l'ho connesso al Kenwood, perché il Kenwood ha occhi chiusi di connesso i microfoni. E niente, funziona bene, però l'ideale adesso, se trovo un coro, trovo un 4 o 5 di quei connettori, mi faccio un cavetto e lo ritorno lì con normale, capito? Quando lo devo provare lì, mi metto il cavetto, quando sarà, riprendi. Come fate a vedere che se funziona se non c'è finale? Già mi arrangio, non ti preoccupare. Hai capito? Stavo anche modulando, se vuoi ci modulo anche, mi vuoi sentire se vuoi. Finale, che cosa ne hai messo? Finale suoi? No, non c'è una roba da Motorola, già non fanno. Ci vogliono i finali suoi, costano, so anche dove reperirli. Ci vogliono 100 euro più le spese postali. Se li ho trovati, capito? Quasi nel tipo di finale già. C'ho conoscenti a Milano, ho fatto una chiamata e questo è andato. Però adesso io 100 euro tiro non li spendo perché io li compro, li muovo il lascio dopo la busta, quando è perché quell'apparecchio vuole allineato, io se voglio c'ho anche lo oscilloscopio, qui c'ho con le cose, perché io faccio una telefonata, questo mio amico a Cagliari comandava maresciallo dei carabinieri, un ruolo dei carabinieri in pensione, le motovedette, questo è il tecnico che fa le riparazioni, è un altro dell'arma, il capitolo conosce, se vuoi può salire con gli strumenti, si fa, facciamo il lavoro, capito? Ma non adesso già perché ho speso una barca di soldi, ho fatto tutte le valvole nuove a ricevitore, a somme, questi soldi escono, c'è un'impisi, domani c'è un'impisi, bisogna, capito già, stringere un po'. E a me, interessante guadagnare i soldi poi, come li guadagni lì, così è già. Interessante che si guadagni, non puoi. È brutto quando non si guadagna che ci sono le spese, allora sì che è brutto. Io ho incassato da poco i soldi di novembre e dicembre, e ne ho capito, domani che devo fare delle patrone, sono anche un po' disgustato, cioè, questa roba, ho avuto dei, capito, con questi ragazzi, tante volte mi devo incassare, so se degli rotti, se non sono se degli apostoli mi passano le divisioni. Poi cade dici qualche cosa, c'è un'altra volta, siccome mi avevano trovato le fette di apertura del Ducato, se non si trovava già, ero riuscito da Bologna a portarne una dall'altra scuola bus del cugino di mia moglie, che ne ha due che stava le moglie, perché anche solo una c'era mezzo incasinata, però c'era, riuscivo a aprire, perché non si trovava manco a comprare bene. Gira già, compro una volta fatto di revisionate le macchine. Stavo andando questa bambina a buttare il coso già, quando butto la mano mi si rompe la levetta. Cazzo, mi tiri, mi è uscita proprio, sono andato su tutte le furie, perché ho detto, sto tirando colpi al vetro, con così, con quello ghiacciato, in quello grande, si spacca, poi dice, quello che lo sta facendo, l'altro lo guarda, si mette a ridere, come dire, continua e lascialo quello, e io rotto veramente delle scatole, adesso me ne sto fregando. Nicola, che succede? Ho detto, ho rimane così e si arrangiano, perché non si deve muovere per la salute, capito già? Ma non c'è un'accompagnatrice che li controlla? Poi, già la salete, può bene che non le voglio. L'altra volta ne hanno messo una già, subito fuochi, quando scende, come si chiama, in zona dell'agro, e capito che mi intendo con, capito, meglio che non ce ne sia già, meglio che non ce ne sia, che io sono una persona, rido, faccio lo scemo, e capito che non sono in cerca di nessuna, né di nessuno, e né di niente. Non le voglio per questo motivo, perché sono due paesi di gente metti fuoco a rompere i coglioni, e scusate la frase che mi è uscita, in casa, capito, io già, ce n'era una, capito, e subito hanno messo fuoco alle acquame, su come non erano, manco i titoli aveva, e a me mi ha fatto girare le cose questa, capito, l'ho detto a mia moglie che mi intendevo, ma stiamo scherzando già, io rido, faccio che c'è un numero riconoscente, non sono in cerca della famiglia, non me la rovino per nessuno, quello è frainteso. Vabbè. Le voci sono voci, ma sua moglie già ti conosce. Se ti conosce lì, l'interessante è quello. Tanto la gente avrà sempre da dire. Però una mano serve, perché tu sei guidato, non puoi stare a dare retta a quello che fanno loro. Thank you. il sottoterra sì, non ti piace stare in Friuli. Io penso sempre visto che ti innamori di qualche altra ragazza. Paga, paga. Lo so. Ma comunque è così già. Vediamo se vuole entrare qualcuno. C'è qualcuno che vuole entrare? Tutti a dice il buco. Ma quelli con molte ascolte danno problemi. Io li vedevo al quadrato quando li provavano, erano sempre problemi di messa in moto, eccetera. Già. Mi hai fatto la mina in anno. Cavaga. Vabbè. Già, io ti saluto da che mi sta venendo il sonno, se no qui magari non ti rispondo quando mi parli. Ci andiamo domani, dai. Buonanotte. Ciao, buonanotte.